Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. So che oggi tutti vorreste parlare della neve, ma della neve ne abbiamo già parlato venerdì, quindi vi abbiamo anticipato. Oggi vorrei parlare concretamente di qualcosa che attiene la nostra vita, la nostra serenità, senza fermarsi a queste fattispecie passeggere transeunti e stagionali che sono il maltempo, che per qualcuno rappresenteranno un vero e concreto disagio, ma quando passerà questo clima post-atomico, quando tutti torneremo a vedere sorridere le nostre strade, splendere il sole, ricominceranno i problemi di tutti i giorni. Sì, perché l'emergenza ci accomuna, sembra che i problemi principali vadano in secondo piano. Importante uscire di casa e trovare il pane, le panetterie sono tutte chiuse. L'importante è avere le calosce invernali e non scivolare sul lastrone di ghiaccio. L'importante è riuscire ad accendere la pompa di calore perché non c'è gas e quindi non vanno i termosifoni e via dicendo. Passata questa fase emergenziale torneranno tutti i problemi come l'abbiamo lasciati esattamente una settimana fa. E uno dei problemi che mi sembra forieri di angoscia per tutte le generazioni, per le giovani generazioni, per le generazioni mediane, per le generazioni anche in età quasi pensionabile, che però necessariamente ancora hanno famiglie da mantenere, necessità di sopravvivenza, è quello del lavoro. Non voglio entrare qui nelle fattispecie complicatissime e specifiche del problema del lavoro, ma in generale vorrei rivolgere l'ottica o l'interesse a un campo molto particolare, alla rete. La rete è ancora considerato nella generale percezione di tutti come luogo di dissipazione e di divertimento. Chi va in rete perché ha tempo da perdere. Ah, voi state tutto il tempo attaccato a un computer, ancora sempre lì attaccato a internet. Quando sento una madre dire a un figlio questa cosa qui, io rifletto un po'. Sì, è vero, è giusto, dovrebbe fare la versione di greco e latino, dovrebbe fare gli esercizi di aritmetica, dovrebbe studiare la storia, la geografia, ma se acquisisce manualità, acquisisce conoscenza, acquisisce familiarità con quel mondo e con quell'ambiente, anche semplicemente cazzeggiando su Facebook, anche giocherellando con le applicazioni dell'iPad che permettono di elaborare foto e filmatini, un divertimento che accomuna tutte le generazioni, dai 9 ai 70 anni circa, beh, evidentemente sta cominciando a sondare gli strumenti necessari per muoversi in un luogo che sempre più assomiglia alla nostra esistenza quotidiana. Quali sono le opportunità di lavorare attraverso la rete? Io non dico di fare lavori legati alla rete, cioè di persone che costruiscono oggetti virtuali e digitali, permettono gli interscambi in rete, si inventano meccanismi per far funzionare meglio la rete. Ma la rete come grande ufficio di collocamento funziona? La rete permette di bypassare quelle che sono ormai le normali maniere per trovarsi un lavoro? In Italia pare che la prima sia quella di avere parenti spendibili o conoscenze spendibili, ma passata un po' questa fase, le altre fasi sono in qualche maniera sovrapponibili o perlomeno preferibili a sistemi che appartengono a quel mondo così bistrattato, così demonizzato, così additato come luogo di profonda dissipazione e lussura che la rete? 800240024. Avete mai pensato di cercare lavoro in rete? Avete trovato lavoro in rete? La rete vi ha aiutato per stabilire relazioni che non siano soltanto mirate ad intimidazioni, ma anche a proficue occasioni di lavoro? Mi chiamo Serena Spidalieri, ho 28 anni e sono di Campobasso. Ad oggi sono consulente per la rete Eurodesk Italy e concretamente mi occupo di offrire informazioni ai giovani riguardo ad opportunità di mobilità nell'ambito della formazione e del lavoro, ovviamente in Europa. Ho avuto sempre un particolare interesse per la comunicazione, quindi per l'informazione e per le tematiche europee in generale, tanto che sono laureata in comunicazione internazionale presso l'Università per Stranieri di Perugia, laureata nel 2004. Questa è una ragazza, una delle tante persone che pensano di mettere un loro curriculum in rete. non costa nulla, anzi è un'attività molto semplice. Ci fu addirittura Umberto Eco, mi sembra che scrisse, no, Umberto Eco scrisse come si fa una tesi laurea. Comunque ci sono vari temi, vari testi che specificano come si debba compilare un curriculum. Mandare dei curricula è naturalmente una delle prime maniere per farsi conoscere nel mercato del lavoro. Si mandano sempre con barlumi molto labili di speranza che qualcuno li legga. Si sa benissimo che nei luoghi preposti alla selezione del personale arrivano tantissimi curricula e molto raramente, a meno che non siano segnalati, non arrivino attraverso certi canali, hanno occasione di essere presi in considerazione. Però molti lo fanno, molti ci credono. Voi avete mai fatto qualcosa del genere? Avete ottenuto dei risultati facendo qualcosa del genere? O se voi gestite un'impresa, un'azienda, avete possibilità comunque di cercare risorse sul mercato del lavoro? Avete mai pensato di guardare rete per cercare se ci siano profili professionali adatti alla vostra azienda? 800240024. Antonella Napolitano, buongiorno. Buongiorno. Antonella Napolitano è una consulente nell'ambito della comunicazione, ha scritto un libro, LinkedIn, la rete per trovare lavoro dei sogni, edizione Apogeo. Partiamo da quello che sembra il social network dei bravi ragazzi o dei bravi signori, delle oneste signore, il social network dedicato all'interscambio delle occasioni professionali. Lei ha scritto un libro dedicato proprio a LinkedIn, ma esiste una possibilità concreta e reale di trovare lavoro all'interno di questo social network? Sì, si può dire. Ormai anche in Italia è un social network piuttosto diffuso, conta ormai più di 2 milioni di utenti e sta crescendo, cosa diciamo significativa, sta crescendo esponenzialmente. Ecco, spieghiamo come funziona e di cosa si tratta, perché il medio pubblico non è detto che sappia esattamente di cosa si tratti. LinkedIn è un social network che consente di inserire in modo diciamo piuttosto semplice e funzionale il proprio curriculum, quindi la propria posizione, l'azienda, descrizione del proprio lavoro, consente di integrare il proprio sito, anche la propria presenza su altri social network o il proprio blog, quindi consente di creare una presenza online unica in una sola pagina, consente anche di creare un indirizzo unico con il proprio nome. E quindi un profilo diciamo collegato a un link, quindi che può essere molto facilmente diffuso e integrato anche nel proprio profilo di Facebook o diciamo del proprio che blog, consente di avere una presenza lavorativa unica integrata in rete e molto facilmente gestibile. L'impressione che però serva più a chi già ha un lavoro per magari trovare e assaggiare altre possibilità o pesare quanto valga la sua posizione nel mercato del lavoro. Di solito sono persone che già hanno una solida, più o meno solida presenza professionale e si scambiano le reciproche informazioni. Difficile trovare un disoccupato, o mi sbaglio? Beh, questo è sicuramente vero come base, anche perché comunque LinkedIn esiste già da molti anni, è stato creato nel 2003, ma solo nell'ultimo paio d'anni ha avuto quello che si può dire il boom, quindi diciamo nei primi 6-7 anni di vita ha raggiunto i 50 milioni di utenti e negli ultimi due ha superato i 100 milioni, fino ad arrivare, dati ufficiali dell'estate scorsa, a 135 milioni nel mondo, con un 56% fuori dagli Stati Uniti e il restante negli Stati Uniti dove nasce. Ecco, questi numeri hanno un valore secondo me diverso rispetto alle cifre degli altri luoghi in cui si cerca lavoro, perché sono numeri che appartengono al mondo, non sono legati soltanto a una realtà nazionale o regionale. Uno quando mette un curriculum, se ben articolato e ben scritto, in un social network, ha la certezza che comunque avrà l'attenzione di qualsiasi persona che cerchi un profilo simile al suo in qualunque parte del mondo. Sì, tra l'altro la cosa, diciamo, le caratteristiche significative sono intanto tra l'altro una funzione di ricerca molto ben fatta, quindi sia per chi cerca lavoro che per chi cerca persone da inserire nel proprio staff. La funzione di ricerca si basa sulle parole chiave, questo è poi fondamentale nella stesura del proprio profilo, quindi nell'essere precisi nel descrivere la propria posizione e le proprie competenze. E poi progressivamente LinkedIn, ovviamente in Italia più lentamente, però sta diventando anche integrato, per esempio nella sezione recruiting di siti di aziende. C'è la possibilità per le aziende di avere una propria presenza, quindi non solo dei profili personali ma anche delle pagine aziendali dove si può in qualche modo presentare l'azienda, la cultura aziendale. C'è una sezione proprio per le opportunità lavorative, che tra l'altro vengono poi anche proposte dal sistema proprio facendo un match tra le parole chiave, quindi c'è comunque una funzione anche di suggerimento, così come Facebook suggerisce gli amici, anche LinkedIn suggerisce persone che potremmo conoscere. Fermiamoci un attimo perché c'è Giovanni, buongiorno, il primo ascoltatore. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei. Io ho trovato lavoro svariati anni fa tramite anche un altro sito che è abbastanza noto e specifico, è Monster. Quindi l'azienda cercava un profilo, io ho inviato il curriculum e dopo vari colloqui sono entrato a far parte di quell'azienda. Poi lo scorso Questa è stata una delle tante possibilità per mettersi sul mercato, era l'unica? Lei è andato subito diritto alla ricerca tramite la rete? No, ovviamente c'è stato, anni prima c'era l'invio modello spam a tutti i cacciatori di teste dei curriculum, quindi ho inviato... La prima fase del web ante 2.0. Sì, ho inviato tutti quanti i curricula a... facendo una semplice ricerca sui motori di ricerca, su quelli che erano gli edante, e quindi... Hanno risposto? Poco, devo dire la verità, molto poco, però proprio per questo uno non può inviarne 10 o 20, ne devi inviare veramente tanti. Poi l'occasione, a mio avviso, si trova. È anche una fortuna questione a volte di capitare fortunosamente sul tavolo della persona che sta cercando quel profilo. E invece su LinkedIn è riuscito poi a trovare lavoro? Su LinkedIn sì, assolutamente sì, e ho avuto, le dirò, la maggior parte dei contatti che ci ho avuto li ho avuti tramite LinkedIn di headhunter che mi cercavano, quindi che cercavano un profilo che era quello mio, ovviamente, non solo nel settore mio però. La cosa strana è che c'erano headhunter che facevano ricerche per profili in settori differenti. Ecco, lei aveva già comunque un curriculum ben strutturato, non è che cercava lavoro così, basandosi solo su un titolo di studio, quindi aveva già un suo peso nel mercato del lavoro. Sì, non importantissimo. In che però... settore? Posso sapere in che settore? Dalla grande distribuzione, quindi parliamo di aziende multinazionali della grande distribuzione. Grazie, sentiamo Giorgio. Giorgio, 28 anni, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, volevo condividere questo consiglio che mi è stato dato proprio la settimana scorsa. Allora, io avevo un lavoro fino alla fine dell'estate, ora sto cercando di ricollocarmi. Ho un po' di titoli, nel senso che sono laureato in economia in Bocconi, dottore commercialista, ho fatto consulenza a fondi immobiliari e ora sto cercando appunto un nuovo lavoro. Mandati 1000 curricula online, LinkedIn, ho tantissime connessioni, raccomandazioni che... è una cosa che a mio avviso era abbastanza utile, nel senso che non so se sapete come funziona, ma se qualcuno ha un conoscente o collega su LinkedIn nella propria rete di amici può chiedere una raccomandazione che poi comparirà sul mio profilo. Benissimo, hanno dato pochi risultati, nel senso che colloqui ne ho fatti, però insomma tuttora sono ancora in cerca. La settimana scorsa mi è stato dato questo consiglio: Giorgio, vai di cartaceo. E questo perché? Perché ormai online tu sei uno dei 1000, ora là l'unicità non sta più nella presenza nel web, ma probabilmente in un contatto diretto, molto più personale, molto più affettivo, che viene dato dal cartaceo, da una firma in originale e da un indirizzo scritto a penna, direttamente non alle risorse umane ma al parroco. No, no, su, perché se, ritorniamo all'antica saggia e concreta e bistrattata raccomandazione, cioè la letterina messa in mano alla persona giusta, perché no. Non vedo la differenza per ricevere una busta o ricevere un'email, sinceramente. No, allora il ragionamento era stato questo: siccome ora di offerta ce n'è molto poca di lavoro, di domanda tantissima, di offerta mi scusi, tantissima, di domanda molto poca, le risorse umane purtroppo, cioè l'ufficio del personale ha poco margine di manovra, nel senso che se anche un curriculum è interessante, non dipende da loro l'assunzione. Da chi dipende l'assunzione? Dagli amministratori delegati, sempre di più dai vertici. Se c'è qualcuno che può trovare una persona, uno spazio in azienda, questo non è l'HR. Lei però ribadisce, che è una realtà che non voglio negare, anzi sono sicuro che sia così, ribadisce la parentopoli, l'amicopoli, la puttanopoli, cioè la raccomandazione che arriva sul tavolo delle risorse umane, che non ha strumenti tecnici per selezionare il personale, deve però subire la pressione del capo. Il capo manda sempre persone amiche, amiche degli amici, o persone che siano utili alle sue relazioni personali, individuali. In realtà un curriculum nudo e crudo che racconti e spieghi le competenze di una persona con accanto le referenze di chi l'ha visto lavorare, chi lo conosce lavorare, è un sistema totalmente asettico rispetto a questo antico e bistrattato sistema della conoscenza. Fermiamoci un attimo. Dario Banfi, buongiorno. Buongiorno. Dario Banfi è un giornalista freelance, esperto nel mercato del lavoro, autore tra gli altri del libro Trovare lavoro con internet, anche lui edizione Apogeo. Dario Banfi, rispetto a questa ultima telefonata, cosa hai da dire? Ho da dire che effettivamente, guardando delle statistiche, bisogna dire che internet incide molto poco nel successo di ricerca di lavoro, nonostante si pensi che la tecnologia possa dare di più. Ma non siamo qui per fare apologie, se così è, no, lo diciamo concretamente, è una speranza. Posso dire che negli anni è andata sviluppandosi una serie di servizi che oggi consentono effettivamente di pubblicare un curriculum e incrociare la domanda di lavoro. In particolare si è un po' frammentata la tipologia di servizi che si possono trovare su internet, si va dai più classici siti dove si pubblica il curriculum, è stato citato Monster, si può citare anche Infojobs e altri, lavoro.org, Cliccalavoro, Job Advisor, eccetera, oppure si va dal più classico sito del quotidiano su internet, che ha lo spazio dedicato agli annunci di lavoro, oppure ci sono siti esclusivi per alte professionalità, oppure si può cercare anche lavoro all'estero. Ecco, insomma, c'è una diversificazione del tipo di opportunità che si può. Ma se tu dovessi francamente rispondere a questa mia domanda, all'estero probabilmente sono meglio attrezzati e hanno meno pregiudizi rispetto alla richiesta di lavoro tramite la rete, quindi è più facile trovare per assurdo un posto di ricercatore in un'università straniera piuttosto che un posto di bidello in Italia attraverso la rete. Sì, questo è vero, però io, parlando dell'estero, per esempio pensavo al fatto che in Italia esiste una rete, la rete Eures, che per esempio ha un sito in cui gli annunci sono costruiti molto bene, nel senso sono molto ben dettagliati, e hanno anche persone sul territorio presso i centri pubblici per l'impiego che possono spiegare che tipo di opportunità sono quelle pubblicate su internet. Ma una mia impressione, scusami Dario, visto che tu hai studiato approfonditamente questo problema, proprio una questione di tipo psicologico, morale, non è che chi ha in mano le leve del nostro mercato del lavoro, quindi i capi delle risorse umane, le persone che devono comunque prendere personale quando debbano prenderlo, hanno ancora questo antico pregiudizio che chi manda roba in rete è uno sfigato, non passa attraverso i canali più solidi verifica della sua posizione, soprattutto del peso che ha nella società che lo propone. Insomma, manca qualcosa a chi si propone in rete, manca quella sorta di referenza sottile, subliminale e impalpabile che è appartenere a un gruppo di potere, un gruppo di pressione, un'area politica che in realtà è il fluido migliore, il fluidificatore migliore per trovare un posto di lavoro. Sì, questo è in parte vero, si può trovare una, diciamo, conferma guardando alla qualità delle domande di lavoro che si trovano su internet. Io poco fa facevo una statistica sul sito più grande in Italia, che dice avere 45.000 offerte attive, e ho fatto un calcolo, quelle diciamo che riguardano il posti di lavoro a tempo indeterminato, per cui di una qualità un pochino più alta rispetto al tempo determinato, sono soltanto 2.000, sono molto poche. Questo si deve certamente a fattori di mercato, al periodo in cui siamo, però anche effettivamente a una scarsa fiducia nel veicolare attraverso la rete una tipologia di lavori che vadano al di là di lavori di tipo temporaneo. Anche perché non voglio pensare, non voglio credere, adesso poi do la linea all'informazione della borsa, continuiamo tra un istante, che non ci sia una sorta di corsia preferenziale in qualunque luogo, a meno che non sia una richiesta altamente specializzata, che ancora ci sia la famosa cartellina rossa con le persone che devono a tutti i costi lavorare, che sono i soliti cialtroni, le solite strappamutande, le solite persone mandate lì perché comunque bisogna sistemarle, e ne vediamo parecchie in giro, ogni tanto se ne parla, però rimangono sempre lì tranquilli, contenti, senza assolutamente incidere su quella che è il desiderio e la competenza di altre persone. Melog, la realtà condivisa. Mi chiamo Terenzio, ho 30 anni e sono di Forlì. Nel 2004 mi sono laureato all'Università di Bologna in psicologia del lavoro, e con votazione 108 su 110 e con una tesi sull'analisi delle competenze dell'animatore turistico. E nel 2006 ho svolto l'attività di consulente junior per la selezione del personale e della ricerca del personale presso Profexa Consulting di Bologna. Attualmente sto svolgendo un'attività legata a un mio progetto sul video 800240024. Questa mattina stiamo cercando di capire la realtà della ricerca del mercato del lavoro legata alla rete. La rete, ci sono grandi movimenti di pensiero, grandi attività, e noi stessi ne siamo convinti che sia una delle più potenti possibilità e probabilità di farsi conoscere, di far circolare le proprie qualifiche, le proprie caratteristiche, le proprie attese, le proprie disponibilità. Io sono convinto che ancora nel nostro paese sia considerato un metodo asettico, liberato da tutte quelle fattispecie segrete, limacciose, ma importanti nella ricerca di un lavoro. Anche se un ascoltatore mi dice: ma guardi, lei probabilmente parla per sue esperienze passate negative, nel mondo dell'impresa ci sono ancora persone che cercano competenze, e quando le trovano, qualunque sia il veicolo attraverso cui le trovano, se le prendono e le usano perché a loro conviene. È vero, ma noi abbiamo un mercato del lavoro enorme, gigantesco, legato anche al pubblico, legato anche a luoghi in cui le competenze non sempre danno occasione della prima scelta. E la rete, in realtà, la rete è un luogo asettico rispetto a tutte le componenti umorali, tutti gli accrescimenti parentali, tutte gli additivi relazionali e politici. E questo probabilmente fa sì che in Italia non sia preso in considerazione come è preso in considerazione all'estero. Sentiamo Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare la mia testimonianza brevemente. Mi sono laureata nel 2003 in giurisprudenza. Ho iniziato la pratica legale, molte soddisfazioni, però non abbastanza soddisfazioni economiche. Quindi ho affiancato la pratica legale e volevo affiancare un'altra attività, e ho iniziato a mandare curriculum come docente, proponendomi per vari corsi a enti di formazione, enti regionali, compilando form, eccetera, eccetera. E da allora, nel giro di un paio d'anni, sempre continuando ad affiancarlo alla pratica professionale, ho iniziato ad avere contatti con tantissime società di formazione. E oltretutto, sempre tramite invio di curriculum in rete, sono riuscita a diventare, anche come sono oggi, anche consulente per una holding, diciamo, di società. Ecco, Francesca, il suo è un esempio positivo. Però ci racconti, sì, con quale intensità, quanto tempo ha dedicato, quanti curricula mandava e quante ore allora, alla settimana, per capire? Per il primo contatto, 500 curricula, all'incirca 4 ore la settimana per 3 settimane. Ecco, quindi lei ci sta dicendo che non può essere un'attività sporadica. Cercare il lavoro in rete deve essere un lavoro a sua volta. Ma anche tra le altre cose bisogna anche differenziarsi, bisogna avere una lettera di presentazione diversa per ogni genere di società a cui la si manda, curriculum differenziati a seconda degli annunci più comuni di lavoro, curriculum sempre aggiornati. Tra le altre cose devo dire che tra i miei colleghi, quando sanno che tipo di lavoro svolgo, nessuno crede che io ci sia arrivata a mezzo di un curriculum inviato via mail. Tutti pensano che conosca qualcuno, ma in realtà io ho veramente solo inviato curriculum. Quindi, Francesca, lei in qualche maniera conferma quello che dicevo io. Anche un ragazzino che gioca in rete, passa il tempo a scambiarsi foto o messaggi e contatti con i suoi amici, comincia a capire profondamente quale sia il senso profondo della rete, il senso sottile della rete, che si capisce soltanto frequentandola. Lei, una volta laureata, una volta entrata nel mondo del lavoro, ha fatto esattamente quello che fa un qualsiasi ragazzo che fa social networking, solo che l'ha fatto mirato a un suo bisogno, che non è un bisogno di trovare amicizia, di avere scambi sui suoi divertimenti, ma era trovare un lavoro, e l'ha fatto con costanza, con impegno. Le persone si lamentano, in rete non si trova nulla, probabilmente dovrebbero seguire la sua lezione. Lei ha speso varie ore a settimana con metodo, con azioni mirate, non azioni superficiali. Ma lei si rivolgeva direttamente ai siti delle aziende o andava in questi grandi, diciamo, integratori e diciamo smistatori di il termine tutto. Brutto. Ha fatto tutto. Allora, una sera alla settimana si faceva tramite i siti più comuni, una sera alla settimana compilavo i forum e una sera alla settimana direttamente i siti delle aziende prendendo gli indirizzi. E una volta che dentro, una volta che avviato il meccanismo, poi immagino che diventi tutto più semplice. Una volta che avviato sì, perché poi man mano le aziende ti conoscono, inserisci nel tuo curriculum i riferimenti delle aziende per cui hai lavorato, per cui mano a mano diventa semplicissimo. Grazie, sentiamo Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Sono Fabrizio, chiamo da Milano. Io volevo raccontare un aneddoto che forse è più unico che raro, perché ricordo che mandai un curriculum attraverso internet, selezionando varie aziende. Cliccavo spedisci curriculum, un form già compilato e già sistemato in tutte le sue parti. E dopo 30 secondi veramente ricevetti una telefonata, fu una cosa che mi lasciò veramente fulminato, perché in quel momento ritornai sulle pagine facendo indietro cercando di capire con l'interlocutore quale fosse di quelle aziende che avevo appena cliccato. Da lì ne scaturì un colloquio e l'assunzione. Lavorai per questa azienda americana per 6 anni. E quindi questa è stata un'esperienza che mi ha portato poi a sviluppare molto di più l'interesse mio verso internet per la ricerca del lavoro, e credo che oggi sia molto cambiato, perché questo episodio risale al 2002. Oggi è veramente più complicato trovare dei link diretti alle aziende, ma ci sono appunto questi grandi serbatoi dove c'è qualcuno che serbatoi di curriculum, dove c'è qualcuno che poi filtra e poi qualcosa succederà. In realtà si affida ad altri il proprio destino. In realtà le parole. Beh, però altre persone che a loro volta hanno trovato un lavoro attraverso la rete, che è quella di fare gli integratori delle tante richieste di lavoro. Esatto. Le faccio, resti in ascolto alla radio. Sentiamo una persona che probabilmente ha fatto della ricerca di professioni in rete una sua professione. Giulio Valiante, buongiorno. Buongiorno. Giulio Valiante è uno dei fondatori di jobrapido.it, che è un integratore di domande e richieste di lavoro che fa 10 milioni di visite, qualcosa del genere. Vediamo se ci spieghi un po' meglio cosa hai combinato. Sì, è diciamo un motore di ricerca nel mondo degli annunci di lavoro, che mette insieme diciamo chi cerca lavoro da una parte e le aziende o anche i magazine online vengono comunicamente chiamati come job rapid, come job board, creando un'opportunità diciamo di visibilità degli annunci. Quanta gente passa per il vostro dominio? Allora, in Italia parliamo di circa 4 milioni di persone che mensilmente diciamo navigano all'interno di questo motore di ricerca. È un prodotto che è partito dall'Italia, ma in realtà è presente in questo momento in 54 paesi e diciamo le dimensioni del prodotto, stiamo parlando di circa 30 milioni di persone che mensilmente vanno sul sito a vedere gli annunci di lavoro. Ecco Valiante, tu hai qualche dato per non seminare illusioni su quanti poi realmente ottengano un risultato di quelli che navigano? Noi non riusciamo in questo momento a capire quanto aiutiamo le persone a trovare lavoro. Però due fenomeni sono chiari. Uno, continuiamo, diciamo, il traffico e la visita degli utenti cresce sistematicamente e in maniera molto spontanea. Quindi questo è un dato, per dire, in qualche maniera c'è gente che va sopra per vedere se sono le opportunità di lavoro. Secondo, noi riceviamo dei feedback indiretti con delle mail di gradimento di persone che trovano lavoro e ci dicono grazie per avermi aiutato a trovare lavoro. Questo fenomeno, diciamo, che chiamiamolo nell'ambito del customer care, ci dice che in qualche maniera diciamo oggi si inizia a vedere dei numeri interessanti di persone che utilizzano lo strumento internet per trovare lavoro. Siamo ancora in una fase in Italia diciamo indietro rispetto a altri paesi. Se si va in Inghilterra o in Germania, i numeri che girano intorno a prodotti di questo tipo sono impressionanti. Oramai le ricerche di selezione di persone, di selezione sia di profili, diciamo, di manovalanza, ma anche di profili più evoluti, passano attraverso internet. Ecco, ci fermiamo solo un istante che devo dare le informazioni del traffico, poi vorrei proprio sapere anche da te quali sono i settori più attivi nel nostro paese. Abbiamo già capito, per quanto gli indicatori dicano che l'italiano si sta affrancando dalla sua ignoranza abissale nel mondo digitale, lo sta facendo giocando, divertendosi, giocando in senso concreto e reale con i poker online, con le tante maniere di giocare online, ma anche giocando, relazionandosi, insomma ha scoperto il mondo, è uscito dalla provincia della propria ristrettezza geografica. Però vorrei capire anche chi sta per primo assaggiando questa straordinaria occasione di cercare mano e menti specializzate attraverso la rete. Melog, la realtà condivisa. Ciao, mi chiamo Mauro, sono nato a Milano e vivo a Milano, ho 35 anni e una laurea in economia e commercio presa alla Bicocca, all'Università Bicocca di Milano. Partendo dalla mia esperienza più importante, sto lavorando in Levis e come district manager e mi sto prendendo cura di 28 negozi in tutta Italia, più 4... Ancora con i curricula messi in rete, da persone che in questa maniera comunque hanno una maniera per farsi conoscere. Stiamo parlando delle ricerche, delle offerte, del mercato lavoro, del lavoro in rete, che è una modalità probabilmente non fortemente stimata nel nostro paese, considerata residuale, considerata da disperati, considerata da smanettoni, considerata da persone che non vivono la realtà concreta del mondo del lavoro. Ma questa è una nostra percezione prettamente nazionale che probabilmente cambierà. Stavo parlando con Giulio Valiante, che è uno dei fondatori di jobrapido.it, che è diciamo un portale che aggrega tutti i luoghi in cui si cerca lavoro e si offre lavoro. Potresti darmi un giudizio ad esempio su monster.it, che molti ci stanno scrivendo che è uno dei siti che pare più frequentato per cercare lavoro, e come funzionano poi? Ma allora è forse il sito che ha aperto questo mercato. In realtà è come se fosse un magazine dove io diciamo entro all'interno, mi costruisco il mio curriculum e lo inserisco nel database. Una volta inserito nel database, in funzione degli annunci di lavoro che io seleziono, quel portale mi indica, io riesco a diciamo inviare a queste aziende che richiedono lavoro il mio profilo, che poi viene elaborato successivamente normalmente dalle aziende con un software in funzione di alcune caratteristiche, dalle quali esce una sorta di lista di candidati che rispondono a quei requisiti che vengono chiamati direttamente dalle aziende. Quindi diciamo la compatibilità del curriculum con i database che poi lo leggeranno, sto semplificando, esatto, il problema, è importante. è fondamentale. Alla fine, diciamo, dato che questa internet muove grandi numeri, su un singolo annuncio possono arrivare anche 10.000, addirittura in alcuni casi, risposte all'annuncio di lavoro. Per cui l'azienda deve filtrare queste, diciamo, queste domande di lavoro. Alcune sono attinenti, altre meno al profilo ricercato. Successivamente si fa un grande shaker di competenze, età, esperienze precedenti, ed esce una lista di persone, di candidati che normalmente per una posizione non superano i 20 candidati, di più l'azienda non riesce a gestire, che vengono chiamati, e ovviamente poi il colloquio, la parte umana diciamo rimane sempre, perché alla fine il feeling con la persona, come si presenta la persona e il tipo di competenza che mostra fa la differenza. È un sistema che sta migliorando, perché all'inizio era un sistema molto rozzo, era molto difficile inserire le proprie informazioni in maniera corretta, certe volte, diciamo, la tecnologia faceva delle bizze, per cui si inviava, si rispondeva un annuncio, in realtà la modalità con cui veniva risposto l'annuncio non era corretta, per cui rispondevi anche annunci che non avevano niente a che fare col tuo profilo. Quindi confermi quello che diciamo dall'inizio. Sì. Occorre, esatto, che si affini la professione nel sapersi vendere professionalmente, non può essere più una cosa raffazzonata, mandare il documento Word del proprio curriculum scritto quando si era ancora studenti. Bisogna capire quali sono i sistemi, qual è la maniera, qual è l'interfaccia giusta per entrare in questo mercato. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io ho una grossa esperienza di lavoro, di ricerca, lavoro tramite quei siti come JobRad. Quanto tempo a settimana? Vediamo se come l'avvocato... Allora, io passo quasi tutte le sere, quindi si tratta almeno di 3 ore giornaliere, ecco, diciamo, questo mi è successo. E qual è il tuo metodo, qual è il tuo sistema? Allora, il mio sistema è tutta una ricerca per area geografica, metto la mia regione e quindi automaticamente vengono fuori tutte le offerte. Quindi tu prima cerchi, no, e poi... poni la tua domanda, diciamo, la tua offerta. Esatto, leggo l'annuncio e il problema è proprio nella lettura degli annunci, che non c'entra niente l'aspetto tecnologico, perché Monster e GeoBravido o tutti simili funzionano come orologi, come siti, sono fenomenali per chi usa internet. È il problema del contenuto degli annunci, che sono spesso discriminatori, cioè è un sistema buono per trovare lavoro quando esci dall'università e sei nell'età dell'apprendistato, poi si comincia a trovare tutta una serie di discriminazioni, non può avere più di 35 anni d'età, non può avere niente, devi esserti laureato a 200 all'ora, insomma un sacco di skills sono riserte in questi annunci, che secondo me la componente umana vale meno che zero, ecco, questo è il problema. Cioè qualcosa, dimmi la sintesi di questo, è una ricerca di diciamo manodopera a basso costo e di disperati, questo vorresti dire? Non direi questo, diciamo che se c'è una recente indagine dimostrava che il 60%-70% del lavoro veniva trovato sempre tramite conoscenza, il resto passava tramite agenzie di selezione e quindi passando anche tramite questi siti. Io sono uno di quelli che passa tramite quei siti lì, ecco, quindi alla fine secondo me purtroppo ci finiscono forse non proprio tutti i migliori lavori, ma quello che rimane, ecco, tramite dalla selezione per conoscenza. Sentiamo, ecco, su questo Dario Banfi, che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, che è un giornalista che ha scritto diciamo trovare lavoro con internet nel 2016, in apogeo, già sono passati qualche anno, ma probabilmente essendo lui un esperto del mercato del lavoro continua a tenere d'occhio la situazione. Cosa ne dici rispetto alla telefonata di questo ascoltatore? Ma intanto bisogna fare una distinzione, nel senso che su internet tutti possono pubblicare un annuncio di lavoro, se non su Monster ci sono banalmente le cosiddette bacheche, che hanno un livello di mediazione molto basso, per cui si trova veramente di tutto e anche molti annunci non veri. Io ho guardato... ma qual è lo scopo di mettere un annuncio non vero? Ma sostanzialmente trovare lavoro a basso costo, oppure con formule non retribuite, o anche banalmente farsi pagare per fare una selezione, cioè non è escluso trovare chi si spaccia per mediatore quando invece non lo è e magari vuole venderti un corso di formazione a pagamento. Sì, poi ci sono le Iene, che hanno individuato anche l'ultima settimana un signore nel Vicentino che probabilmente aveva un suo casino ufficializzato, cercava ragazze per far marchetta, alla fine era quello, era l'offerta di pubbliche relazioni, ma alla fine quello gli dice: guarda, tanto te tanto a me, le prestazioni sono queste, si va bene così, e andava avanti da anni. però cercando di essere ottimisti, insomma, bisogna anche dire che alcuni siti che hanno una certa attenzione all'annuncio che viene pubblicato possono eventualmente rimuovere l'annuncio che viene visto non essere completo oppure non trasparente, per cui il consiglio è sicuramente di andare su quei siti a maggiore tradizione di intermediazione di lavoro, quelli su cui si ha la certezza di avere delle persone dietro a quel motore che hanno anche un'attività di monitoraggio su quello che succede dentro ai siti di lavoro. Per cui attenzione, perché ci sono più livelli su cui cercare lavoro. Prima si è parlato di job rapido. Job rapido è un metamotore, vuol dire che si può inserire una parola chiave, non so, io posso inserire giornalista come professione oppure esperto di lavoro, e mi risultano tutti gli annunci, ma di tutti i tipi, su quel tipo di... Quindi bisogna sapere anche leggere i risultati del motore di ricerca. Grazie Fabrizio Intonti, grazie al professor Chiappini, ci sentiamo domani. Melog, la realtà condivisa.